Non ho armonia né soluzioni, solo spiragli, poche canzoni ed una lama per conoscere. Un desiderio esponenziale, un'attitudine umorale che si trasformano in esercito. Oggi la luna sorride, domani ti dirò. Tu come nuvola, come allegria, tu fiore in festa dalla mia pazzia, così diversa. Tu nutri il fuoco di un'antica guerra, goccia di vite, lacrima di terra. Eroi.